Appello. Ademo Elisabetta. Presente. Bozzini Emanuela. Presente. Calderon Clelia e Leo. Presente. De Angelis Marco. Presente. Obbligo di frequenza. Di Maria Piera Ceci. Buone notizie dall'Aquila, arrivano i soldi e non pochi per far ripartire l'università. 20 milioni dall'ENI. Come ha spiegato il ministro Gelmini, l'università è un volano economico per lo sviluppo di questo territorio. Stiamo lavorando per dare risposte precise. La prossima settimana firmeremo il protocollo d'intesa che conterrà l'abolizione della contribuzione studentesca per il prossimo anno per appunto gli studenti dell'Aquila, una serie di risorse per la ricostruzione dell'università, ma accogliamo con grande soddisfazione e con riconoscenza la disponibilità di ENI a lanciare questo ponte sull'innovazione valorizzando i migliori ricercatori dell'Aquila. È un progetto che contempla la costruzione di un centro di ricerca che riguarda le biotecnologie, le scienze matematiche e fisiche, anche l'ingegneria, quindi i settori di competenza di ENI, ma anche la costruzione di 100 alloggi per studenti. Pensare che l'ENI sia disponibile a stanziare circa 20 milioni di euro per la costruzione di un centro di ricerca e annessi alloggi, credo che sia un segnale che possa far ripartire l'università e riaccenda anche un po' la speranza. L'Università dell'Aquila non morirà, non voglio fare promesse rispetto alle quali non ci sono garanzie precise, però il nostro obiettivo è proprio quello di poter riaprire l'anno accademico in una situazione di quasi normalità. Sono tornati a scuola i ragazzi del liceo scientifico Darwin di Rivoli, in provincia di Torino. Erano ospiti di altri istituti dal 22 novembre, quando un controsoffitto crollò e travolse un'intera classe, zaini, libri, quaderni e soprattutto gli studenti. In quel crollo morì Vito Scafidi, di soli 17 anni, e un suo compagno, Andrea Macri, rischia ancora di non poter più camminare. Cerimonia solenne qualche giorno fa per il rientro a scuola dei ragazzi alla presenza del ministro Gelmini. Cerimonia durante la quale non sono mancate le polemiche. Troppe parole vuote sono state pronunciate quel giorno, secondo la famiglia di Vito, e se ora quella scuola è sicura non è grazie all'intervento dello Stato e degli enti locali, ma grazie al sacrificio di Vito e di Andrea. E poi, dicono ancora i genitori di Vito, quella scuola ora dovrebbe portare il nome del loro figlio. Importante comunque per i ragazzi essere tornati nella loro scuola, come ci racconta la preside Maria Torelli. Sicuramente per i ragazzi è una cosa fondamentale, perché i ragazzi hanno sofferto molto in questi mesi. Hanno fatto lezione dall'una e mezza alle 7 di sera e si può bene immaginare che questo ha stravolto la loro vita, gli ha limitato il tempo per lo studio, gli ha annullato la possibilità di frequentare attività extrascolastiche, sport, musica, quello che è, quindi per loro è stato un passo fondamentale che era da fare nei tempi più rapidi possibili, insomma, non si poteva dilazionare oltre. Tra l'altro ci sarà ancora comunque un forte shock, soprattutto da parte dei compagni, immagino, non di Vito Scafidi. L'esperienza che hanno vissuto i nostri ragazzi è un'esperienza che non dimenticheranno facilmente. Certo. Senta, lei si sente tranquilla, insomma, siete ritornati a casa, tra virgolette, si sente tranquilla, gli interventi che ci sono stati, secondo lei, dal sono sufficienti? Dal punto di vista della sicurezza, sulle zone della scuola che occupiamo direi che abbiamo il massimo della sicurezza, certificato, garantito in tutti i modi possibili e immaginabili, su questo non ho dubbi, perché ho seguito i lavori giorno per giorno, in mezzo al cantiere sempre e so quello che dico, insomma. Sono stati lavori di che tipo? Sono stati lavori di rifacimento di tutti i controsoffitti di quel genere, del tipo Perret, e poi tanti altri lavori che in qualche misura erano già da fare, che adesso sono stati fatti. Quindi a questo punto, insomma, la scuola Darwin è sicura, possiamo essere tranquilli da quel punto di vista. Per le zone che ci hanno restituito, perché non abbiamo tutta la nostra scuola, abbiamo solo un pezzo della nostra scuola per ora. E questi interventi non era possibile farli prima, insomma? Questa è una delle domande a cui non mi piace di rispondere, perché se mai al mondo qualcuno di noi avesse pensato pensato che c'erano da fare, l'avremmo chiesto, richiesto, insistito. Certo. Però non apparivano evidenze di alcunché. La Gelmini, proprio visitando la vostra scuola, ha detto: c'è in giro un'equipe di tecnici che sta verificando e sta monitorando scuola per scuola in giro per l'Italia. Ecco, secondo lei, insomma, se i controlli fossero stati fatti prima, i famosi controlli annunciati dalla Gelmini con i tecnici, forse questa tragedia si poteva evitare? Come è scritto nella perizia, a occhio non era visibile nulla, cioè quei soffitti erano assolutamente intatti e perfetti. Poi, da lì in poi, non sono più io che lo devo dire, non so come risponderle, non so come rispondere. Cioè, le dice, cioè, se io avessi visto qualcosa di strano avrei chiamato comunque l'intervento, non è stato non fatto perché non c'era nessuna spia. Io ho fatto liste di lettere per richiedere qualunque cosa, anche la più banale, lì non era visibile nulla, questa è l'unica cosa che io so. Del resto in quella scuola c'era anche lei, insomma, no? Quindi, no, ma poi io avevo sulla mia testa un soffitto così, era così il soffitto nel mio ufficio. I primi che sono stati demoliti sono stati quelli dei nostri uffici. Pensa lei che se noi avessimo avuto un minimo di sentore di qualcosa non ci saremmo allarmati? Senta, la intitoliamo questa scuola a Vito Scafidi? Arrivederci, la saluto adesso. Lei sarebbe d'accordo o no? Io su questa domanda voglio dare alla mia scuola il tempo di riflettere. Abbiamo detto che avremmo riflettuto, stiamo riflettendo. Non mi chiedete risposte, anzi tempo. Staremo allora a vedere se la scuola prima o poi porterà il nome di Vito, così che tutti i giorni si possa ricordare la sua morte assurda avvenuta mentre era seduto al banco a seguire le lezioni. Spero che l'istituto possa assumere l'intitolazione a Vito, perché l'impegno sul fronte della sicurezza negli edifici scolastici deve essere sempre in ciascuno di noi molto presente, ha detto il ministro Gelmini. È chiaro che è un impegno molto gravoso perché abbiamo accumulato un ritardo notevole, ma stiamo già lavorando con squadre di tecnici per fare sopralluoghi in tutte le scuole e garantire la sicurezza. Non sono piaciute a tutti queste parole, suonate a molti un po' di circostanza. Non posso sopportare le ottimistiche previsioni del ministro, dice l'assessore regionale all'istruzione Giovanna Pentenero. Queste le sue osservazioni. La prima: se davvero il governo ha intenzione di investire nei confronti dell'edilizia scolastica, allora il patto per la sicurezza che è stato siglato 3 anni fa, non riducete le risorse a una regione come la nostra, dove lo Stato assegnava 6 milioni di euro, sono stati decurtati circa 1 milione di euro. Quindi non riducete queste risorse, lasciate i progetti che già sono stati avviati, da un lato. Il secondo aspetto è legato al fatto che le micro equip di cui parla delle quali ha parlato il Ministro, che hanno l'obiettivo di andare in ogni singola scuola. Se voi immaginate che nella nostra regione ci sono 3.129 edifici, i rappresentanti del Provveditorato Interregionale delle Opere Pubbliche sono 20 e lavorano, dedicano a questo tipo di attività un giorno alla settimana, voi fate le divisioni e capite che noi ci mettiamo 3 anni a fare queste ulteriori verifiche che dovranno costituire elemento per la programmazione e per l'individuazione delle priorità degli interventi sugli edifici scolastici. Allora non è possibile che noi andiamo a condividere, perché in conferenza unificata le regioni insieme agli enti locali hanno condiviso questa proposta che il ministro Gelmini insieme al sottosegretario Bertolaso hanno fatto, ma deve essere una proposta seria. Seria perché da un lato deve prevedere una programmazione in tempi brevi e dall'altro deve avere le risorse disponibili. Si parla di 1 miliardo di euro attraverso risorse FAS, sappiamo con quale fatica le risorse FAS però poi sono risorse reali. Quindi insomma i soldi ci sono ma non si sa poi se arrivino davvero. Le verifiche ci sono ma con tempi lentissimi, esatto. Dietro tante parole i fatti sembrano essere molto meno, insomma. Esatto, i primi fatti che potrebbero essere concreti sono quelli di rimpinguare le risorse per i patti per la sicurezza, quando invece, come vi dicevo, sono stati ridotti di 1 milione di euro per una regione come la nostra, su una programmazione per la quale i comuni e le province avevano già avviato i progetti. Quindi vuol dire adesso far sì che province e comuni vadano a ritrovare le risorse mancanti dallo Stato, o le integra la regione o le integrano le province o le integrano i comuni. E quindi, come dire, l'elemento del patto sulla sicurezza che si costituiva sul un terzo messo a disposizione del Ministero, un terzo messo a disposizione delle regioni e un terzo messo a disposizione dagli enti locali, erano elementi che come dire, permettevano una programmazione, permettevano nell'arco di 3 anni di andare a identificare edifici che dovevano essere messi in sicurezza. Se queste risorse vengono a mancare su una programmazione triennale, vuol dire che quanto era stato deciso, quanto si era deciso di fare, non lo si può più realizzare. È saltato, certamente. Per quanto riguarda invece nello specifico la scuola Darwin, il contributo dello Stato è stato sostanziale o irrilevante? Ma quello che mi risulta, l'intervento dello Stato è stato legato attraverso l'Ufficio Scolastico Regionale per l'acquisto di un po' di arredi. La Regione Piemonte ha stanziato 500.000 euro e la restante parte, che ammonta a quasi 2 milioni di euro, è stato stanziato dalla provincia di Torino. E lo Stato? Mi risulta siano state destinate un po' di somme per gli arredi. Qualche banco e qualche lavagna? Non mi risulta altro. Stando così le cose e visto quello che è successo a novembre alla scuola Darwin, lei è tranquilla? Mi sento tranquilla appunto per, come dire, le forze che sono state messe in campo dagli enti locali. Cioè la coscienza è a posto, quello vuole dire? Io mi sento abbastanza di dire, sì, di poter affermare che i genitori possono stare tranquilli all'interno dei nostri edifici. Certamente diventa, come dire, la mia affermazione è un'affermazione che contrasta con quanto è successo nel liceo Darwin, però mi sento di dire che la situazione è abbastanza sotto controllo. È tutto, ci risentiamo sabato prossimo come sempre alle 12:45.